se io ho questo nuovo media, la possibilità cioè di veicolare un numero enorme di informazioni in un microsecondo, mettiamo caso a un aborigeno dalla parte opposta del pianeta, ma il problema è aborigeno, ma io e te che cazzo se dovevo dire? Eccoli, gli sciroccati del mercoledì sera. Ma questo non è Scirocca e Tramontana, eh? Ma perché c'è freddo, professor? No, batto le brocchette. 22:50, torniamo in diretta. E qual è la... Aspetta che no, stai proprio spavaldo. No, mi dovresti dare, sì, innanzitutto più cuffia, dopo, con calma. E poi volevo sapere qual è la birra mia, quella più vuota o quella più piena? Quella più vuota. Cazzo. Con l'unica costante che sono le nostre incertezze tecniche. Sì, però appunto basta smanettare un pochetto, alla fine si risolve sempre tutto. Radio Onda Rossa 87.9 della modulazione di frequenza della banda romana e laziale. E questo è 25 o'clock. 25 o'clock come ogni mercoledì notte che si rispetti, barra giovedì, perché poi alla fine si va appunto nella 25esima ora. E ricordiamo le coordinate della radio. Iniziamo dal numero di telefono, lo 0649 1750. Per le vostre trillate selvagge, fatevi sentire. Ricordiamo il sito della radio, raggiungibile al www.ondarossa.info. Ricordiamo che Radio Onda Rossa è una radio che dal 1977 è libera nell'etere. Grazie soprattutto al vostro sostegno. E quindi potete sostenere la radio attraverso il sito della radio. E quindi andando a cliccare su Sostieni sarete veicolati sulla pagina di PayPal. potete sottoscrivere anche attraverso lo storico conto corrente postale della radio al 61 80 40 01, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via dei Volci 56 00185, Roma San Lollo. Dai, eh. Le caselle di posta elettronica, vogliamo ricordarle? E quindi l'email di trasmissione 25 o'clock 25 al numero oclock@ondarossa.info oppure fantasma@ondarossa.info. E vogliamo pure ricordare, tanto l'avevamo, insomma, questi giorni vi stiamo, questa qua che c'ho davanti, ecco, ve lo stiamo dicendo in tutte le maniere, tutta scura. Non diciamo, sì, no, scura perché sì, perché poi dopo c'è il concorso. Eh certo. Ma scura. Scura. 014 c'è scritto, sobria. Mm-hmm. Nigoncina, cioè è la scarceranda del 2014, presentata oggi, uscita ufficialmente oggi. Da oggi la trovate pure qua in radio, diciamo da domani, dai, non ci imboccate di notte così in radio. No, potete arrivare, ma ci mettete in, però a vostro rischio e pericolo. E bussate coi piedi. Insomma, com'è andata la cena al Forte? La cena stava andando bene, stava affluendo gente in quantità, spero che ancora ci sia qualcosa, ma non credo, da bere senz'altro. Quindi fate in tempo, insomma, andare al Forte. C'è un bel pezzo di redazione della radio che sta lì a bere, a brindare, a ricordare, a stare vicino comunque a chi è detenuto e detenuta qui a Roma, ma anche ovunque, insomma, qui nel suolo del nostro paese. Scarceranda è dedicata proprio a tutte e tutte coloro che stanno in carcere. E quindi veniteci a trovare questi giorni qui in radio a prendere la vostra copia di Scarceranda. E visto che potete ancora andare a celebrare questo progetto editoriale della radio in quel del Forte, inizio con una selezione, che è una celebrazione. Ed è un pezzo dedicato al vino della celebrazione. E loro sono gli Electric Wizard. Questo è Vinum Sabbati. When you get into one of these groups, there's only a couple ways you can get out. One is death, the other is mental institutions. questo era l'inizio ubriaco. Con gli Electric Wizard da Doptron. Disco tossicone del 2000. E noi rimaniamo sempre in Inghilterra, facendo però un salto indietro nel tempo. 1985. Da un disco intitolato Arise. Questa è la settima traccia, appunto Arise, e loro sono gli Amebics. Yeah. masses of tortured and twisted humanity. You, who sow the rocking seas of gloom and despair amongst your own ranks. Pathetic sniveling little turds, assuming the identity of the down and out. Despondent sheep-like cretins, hopeless clowns in a circus which has long since died. Arise, you fucking assholes, and rejoice. Speak now, or forever hold your peace. E noi ci stiamo scaldando così. E visto che la città è ricoperta di gelo e le città sono coperte di ghiaccio e... vi andiamo a dedicare il prossimo pezzo. Loro sono gli Orange Goblin, questa è Cities of Frost. We'll be right back. E questa era la quarta traccia del disco del 2007, Healing Through Fire, guarire attraverso il fuoco. Quindi speriamo che questo fuoco vi arrivi nella notte, nella gelida notte. E dopo gli Orange Goblin vi andiamo a presentare una novità. Loro sono i Kailisa. Che nel buddismo il Kailisa è il demone dell'impurità. Quindi nel buddismo il Kailisa è lo stato d'animo di ansia, di paura, di rabbia, di gelosia, di depressione. E quindi quando guardiamo il demone negli occhi, lo dominiamo. Noi Kailisa ce le ascoltiamo dall'ultimo disco, che è Ultraviolet. E questo è Low Tide, Kailisa. E visto che abbiamo guardato in faccia il demone dell'inquietudine, il nostro augurio è che rimaniate tutti quanti concentrati e indisturbati, e quindi Motörhead, Stay Clean. I can't believe, can't obey, can't agree with all the things I hear you say. E vi andiamo a ricordare un appuntamento questo sabato 30 novembre in quel dell'Ateneo Squat. Ci sarà il Bestial Fest. E quindi un concerto benefit per i compagni e le compagne del centro di documentazione Fuori Luogo. Si inizierà dalle 15:30. Ingresso offerta libera, possibilità di campeggio se veregge. Buffet vegan distro. E quindi tra gli altri con gli attrito RFT, Essere, Grand Theft Age, No Care War Game, veramente un botto di gruppi. E tra gli altri dalla Puglia ci saranno i Fennec. E ce li ascoltiamo con Falsi Bersagli. Sempre presenti all'Ateneo questo sabato ci saranno i Grand Theft Age. Ce li ascoltiamo dal loro We Come From Your Hell. E questa è Tempesta. e questo era il trash a cannone degli Overkill. No, ma vai, ecco. Dopo una lunga parentesi hardcore, appunto, in presentazione del festival all'Ateneo Occupato, siamo passati al trash vecchia maniera. No, niente, questo era un invito a eliminare il marcio che ci abbiamo dentro. Sì. Perché sì, spesso sì, è quello che tratteniamo dentro. Sì. Che ci rovina. Sì, quando ve scappa il bestemmione, ditelo. Liberatevi. Liberatevi. E dunque, che altro dire? Vabbè, innanzitutto che siete all'ascolto di Radio Onda Rossa 87.9 della modulazione di frequenza. Questo è il delirio del mercoledì notte / poi giovedì. E che, vabbè, sì, ci stanno delle cose da ricordare. Innanzitutto, appunto, vabbè, ci arrivano, continuano ad arrivare, abbiamo parlato prima di Scarceranda, mail dal carcere, mail, lettere dal carcere, poi sotto forma di mail in qualche maniera diffuse, e che quindi piano piano si sta spargendo voce affinché appunto nelle carceri, dunque c'è una data che se non sbaglio è quella del 4 e del 6 dicembre, me la son persa un attimo perché è importante questa roba qua da diffonderla, vabbè, dopo lo diciamo. Vi diciamo esattamente la data precisa, perché appunto comunque sono iniziate una serie di battiture nelle carceri, perché appunto le carceri stanno scoppiando, si parla di leggi, si parla di Berlusconi essenzialmente, e poi si parla di Berlusconi, si parla di ministro del cancellieri, eccetera eccetera. In realtà la realtà delle carceri è estremamente differente, è fatta semplicemente di gente che entra in carcere essenzialmente, l'abbiamo detto e lo continuiamo a ripetere milioni di volte, per due motivi: uno, per le leggi sugli stupefacenti, e quindi sul proibizionismo essenzialmente, o reati legati al proibizionismo, e l'altro, si entra in carcere per immigrazione, perché si è immigrati, perché si è in condizioni, in generale perché si è in condizioni di indigenza, perché questo servono le carceri, questo deve essere un concetto chiaro, ma legalmente per queste due condizioni fondamentali. E niente, quindi si continua a parlare appunto di svuotare le carceri. Svuotare le carceri è semplicissimo, basta creare delle legislazioni che non siano proibizioniste, e basta allentare la macchina repressiva. Sì, allentare la macchina repressiva e permettere alle persone di poter circolare liberamente attraverso i confini degli stati. Quindi non è che servono ricette di chissà quale sofisticazione, basta fare due politiche in questo senso e, diciamo, non risolviamo il problema del carcere, però almeno mitighiamo quello che è il problema principale oggi, appunto, dei detenuti e delle detenute, che è essenzialmente il sovraffollamento dei carceri. Cambiamento che non avverrà da solo. Sì, cambiamento non avverrà da solo, e come sta avvenendo per i CIE, che praticamente vanno a ormai non ci stanno, quasi tutti i CIE in Italia stanno chiudendo, perché semplicemente le persone, gli immigrati, i migranti che sono costretti a stare in questa sorta di campo di concentramento del secolo XXI, lì gli danno fuoco, fanno le rivolte, gli danno fuoco, non ci stanno più posti letto, e quindi comunque in ogni caso il progetto centri di identificazione ed espulsione è di fatto fallito. Dunque, vabbè, detta questa parentesi, direi, prima di andare con la musica, ancora assemblea pubblica verso la mobilitazione del 6 dicembre, giovedì 28 novembre, cioè domani, Lucernario Occupato, Università La Sapienza, un comunicato appunto della Sapienza Clandestina, la grande giornata di mobilitazione del 19 ottobre, ha inaugurato una stagione di particolare effervescenza. Così inizia l'incipit della comunicazione. Invitiamo tutti e tutte all'assemblea di giovedì 28-11 al Lucernario Occupato per confrontarci e costruire insieme la mobilitazione del 6 dicembre, che è appunto mobilitazione riguardante essenzialmente il mondo della istruzione, collegato però a tutto quanto appunto quello che si diceva sul 19 ottobre, quindi sulla il coordinamento delle varie lotte e delle varie emergenze sociali che appunto il 19 ottobre, casa, immigrazione, cioè, senza starci a ripetere, l'abbiamo detto migliaia di volte, hanno messo di fronte a così, hanno messo sul piatto delle cose da fare. E noi continuiamo con la musica qui. Quindi rinnoviamo il nostro augurio. Che tutte le carceri crollino. E questo è dei Coroner, Sudden Fall, caduta improvvisa. E giusto appunto. Sì, insieme ai Coroner ci eravamo dimenticati la data, abbiamo riconfermato il 4 dicembre, quindi è la, diciamo, già iniziata appunto in molte carceri la battitura. Loro chiedono proprio dal carcere di rendere pubblica questa cosa e quindi con coraggio e collettivamente propongono un momento di lotta il 4 dicembre a cui è doveroso dar voce. Quindi chi è fuori e chi è dentro le carceri, il 4 dicembre è una data importante, da qui al 4 dicembre cercheremo di precisare meglio quali saranno le iniziative da intraprendere. E questo è Irene Coroner da un disco del 1988, Punishment for Decadence. Noi continuiamo un po' ispirati dal gelo di questi giorni e vi andiamo a proporre da un disco degli Anathema, quando ancora facevano il meta. Il disco è The Silent Enigma del 1995. Ci ascoltiamo la seconda traccia, che è Velo di Ghiaccio, Shroud of Frost. Queste erano le atmosfere notturne degli Anatema. Che ben si sposano con le temperature di questi giorni. .23:55, siete sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa 87.9. E questa è 25 o'clock. Visto che ci avviciniamo alla mezzanotte, lasciamo tutta intera la 25esima ora al professore. Io vi lascio per questo mercoledì con un ultimo brano. E questo è un progetto di Joe Hasselvander, già batterista dei Pentagram. Questo è un disco del 2004. Fuck them all, but six. E questa è Days of Yore. bando all'ipocrisia. 25esima ora. Noi non viviamo mica nei salotti buoni della borghesia. The Exploited. Ascoltate bene la lirica, eh. La loquela. La profondità. Ma ci siete andati a lavorare stamattina? O forse un lavoro non ce l'avete? Ci avete girato per questa metropoli di merda? Ce ne avete 20 o 50 di anni. Avete ascoltato le notizie del TG della sera? siete chiesti perché uno andava in giro con i vestiti strappati? E si freggiava con delle toppe, con degli oggetti, della roba che si metteva addosso, che si faceva da solo. Vi siete mai interrogati sul senso? The Exploited, Sex and Violence. '84, Toxic Vast, North Ireland, sotto il gioco dell'impero britannico. Good morning. Let's go. Io sono d'un'altra razza. Calma, Gut feeling. Questi sono i Divo Banà. Questa è 25 o'clock, 17 minuti dopo la mezzanotte, letta sull'orologio del Norcino. Dopo i Divo andiamo in terra russa. dove troviamo gli Olecevo? Лесная школа 2 сентября, почти что как зоопарк. Лесная школа 17 сентября, все тот же самый зоопарк. Там свежий воздух, светло и зелено. Per dire che qualche giorno fa è venuto il despota qui in visita a Roma, taluni addirittura lo osannano, come un possibile alter ego alla dominazione mondiale per quanto riguarda le vecchie potenze coloniali e imperialiste. Ovviamente noi abbiamo qualche problema, invece lo abbiamo accolto per quello che è, cioè un despota. e stiamo parlando di Vladimir Putin, ma purtroppo non è finita, perché di despoti e di capi di Stato, diciamo, a noi non piacciono né i capi né lo Stato. Quindi comunque avremmo delle pregiudiziali. Però appunto di capi di Stato ne verranno in visita proprio a Roma prossimamente anche altri, nella fattispecie il boia Netanyahu. E andiamo quindi a così a leggere il comunicato: mai ospitali con i razzisti e i colonialisti israeliani. Per l'autodeterminazione e libertà dei palestinesi, no al vertice Italia-Israele, no ai vertici dei mercanti di morte. L'Italia è il quarto partner commerciale di Israele, col quale ha stretto numerosi accordi di cooperazione, commercio e ricerca in vari campi, tra cui esportazioni di gas israeliano, produzioni di energie rinnovabili, comparto aerospaziale, sicurezza informatica, Expo 2015 di Milano. Agricoltura innovativa, ricerca biomedica e compravendita di sistemi di sorveglianza di produzione israeliane usati nella costruzione del muro dell'apartheid, destinati ad essere installati sulle coste e nelle grandi isole del meridione italiano contro i migranti. Il governo Letta Alfano da una parte impone misure di austerità e di riduzione della spesa pubblica incurante della disoccupazione crescente, e dall'altra destina fondi sempre più ingenti alla cooperazione con Israele, soprattutto in campo militare. Tutto ciò avviene mentre l'oasi democratica del Medio Oriente, ovviamente fra virgolette, accresce in modo esponenziale la sua politica razzista, colonialista e aggressiva nei confronti del popolo palestinese. La colonizzazione sionista della Palestina e la pulizia etnica non si sono mai fermate e procedono anche perché la comunità internazionale, tra cui il nostro paese, sono silenti. Dopo aver espropriato il 78% del territorio storico palestinese per insediarvi uno Stato che è senza confini ufficiali e senza costituzione, Israele, continuando la sua politica di apartheid e non rispettando il diritto al ritorno sancito anche dall'ONU, prosegue con i piani di deportazione forzata della popolazione palestinese, con il piano Power Begin, circa 70.000 beduini del Negev nel sud della Palestina storica, oggi Israele, verranno deportati dalle terre dove hanno vissuto per decenni e secoli, come già sta accadendo alle comunità beduine e ai contadini delle colline a sud di Hebron, nella valle del Giordano e ad est di Gerusalemme, il tutto in violazione della quarta convenzione di Ginevra. Contro il quarto incontro annuale bilaterale Italia-Israele, che si terrà a Roma il 2 dicembre in sostegno alla manifestazione nazionale a Torino del 30 e dell'1 dicembre, a Roma le realtà romane in sostegno della Palestina convocano due appuntamenti di protesta: sabato 30 novembre dalle ore di 15:30, presidio manifestazione in piazza Madonna di Loreto nei pressi della colonna italiana, piazza Venezia, e lunedì 2 dicembre dalle ore 15 presidio manifestazione ai giardini di Castel Sant'Angelo, assediamo il vertice Italia-Israele. Più c'è anche un altro appuntamento sotto il Parlamento, praticamente ai pressi del Parlamento, però non è qui incluso nel comunicato, probabilmente ne avrete notizia ascoltando la radio. Adesso in particolare lo specifico non lo ricordiamo a memoria, quindi vi invitiamo a ascoltare la radio. Sono tre gli appuntamenti invece che due. Comunque, appunto, sabato 30 novembre ore 15:30, presidio manifestazione in piazza Madonna di Loreto nei pressi della colonna Traiana, e lunedì 2 dicembre dalle ore 15 presidio manifestazione ai giardini di Castel Sant'Angelo. E questo è un comunicato a nome a firma del coordinamento Netanyahu non gradito. kiss the air in vain fantasy. Only loved at night, the lady in the noi ci distraiamo in chiacchiere, però con un'ottima colonna sonora, quella delle Rancoz. Peraltro il Pomata in Beckett un po' di mercoledì fa ha presentato una serie di una serie di band, soprattutto dal femminile o con ampia componente femminile del post punk britannico, fra cui le Slits e le Raincoats. E solo sapendo che questi lavori più o meno uscivano in un intervallo di tempo fra il 78 e l'82, possiamo capire quanto queste pischelle dell'epoca stassero avanti. Quindi dopo Only Love That At Night, questo è Dancing In My Head, ed è una sorta di dub fatto con il violino, il basso, le percussioni essenziali e la voce. Difficile perciò dispensare le Raincoats Questa è Radio Onda Rossa 87.9 della modulazione di frequenza 0649175050, ricapitolo telefonico www.darossa.info, il sito della radio. Ondarossa@ondarossa.info, la mail della redazione per le vostre comunicazioni. 25 o'clock@ondarossa.info, oppure fantasma@ondarossa.info, la mail dei redattori, dei conduttori di questo spazio. E approfittando quindi della base che non riusciamo a lasciare, vi leggiamo quella che è l'appello per una ribellione, che è la ribellione dei lavoratori e degli utenti, dei passeggeri del trasporto pubblico di Roma. Carissimi utenti, carissimi cittadini di Roma, ai quali mi rivolgo in particolare, sono Michela Quintavalle, sono un autista dell'ATAC. Una volta un collega ha definito noi autisti dell'ATAC dei semplici numeri, delle matricole, e aveva ragione. Noi siamo quei numeri che ogni mattina accompagnano i vostri bambini a scuola e che all'ora di pranzo vi li portano a casa. Siamo quei numeri che vi conducono al lavoro e la sera, quando ormai il cielo è cupo e il traffico fitto, vi riportiamo nel tepore delle vostre famiglie, quando ne avete. Se quel numero con cui chiacchierate, se invece vivete nella solitudine, quel numero cui raccontate ogni particolare di una vita per noi sconosciuta, acquista pian piano spessore. Siamo quel numero che non può permettersi una vita sociale, perché nemmeno con 24 ore di anticipo riceverà la comunicazione di dove il giorno successivo dovrà andare a lavorare. Siamo quel numero con cui si chiede di comunicare il turno su Marte o il terminarlo su Venere, con tutto lo stress e la perdita di tempo che ne consegue. Siamo quel numero che lavora la domenica per 6 euro in più, quando noi faremo volentieri a meno di 6 euro in più per stare con i nostri figli, la nostra famiglia. Siamo quel numero cui spetterebbero 15 giorni di ferie in estate scelti dall'azienda e altrettanti in inverno scelti da noi. Invece ci viene detto che per mancanza di personale possiamo andare al mare solo 10 giorni all'anno, mentre i più fortunati ne hanno 5, altri 5 a Natale. Siamo quel numero che, se rimane coinvolto in un incidente o sta male per cose più serie, dopo 180 giorni vede dimezzata la sua entrata economica a fine mese. Quel numero per il quale nemmeno una diagnosi medica sembra avere valenza e potere. Siamo quel numero che per andare al funerale di una persona cara deve portare il certificato di morte. Siamo quel numero che per partecipare al matrimonio di un nostro amico deve mostrare superiori la partecipazione. Siamo quel numero che su cui viene esercitata una pressione psichica assurda quando ci rifiutiamo di proseguire il servizio di trasporto pubblico locale con vetture a noi non a nostro dire inadeguate. Siamo autisti professionisti e pensiamo in primo luogo alla vostra sicurezza. Siamo quel numero i cui diritti, bisogni, le esigenze, la dignità non sono stati minimamente tutelati dalla classe sindacale quasi interamente aziendalista, né dall'azienda stessa, perché vi giundittat, il divide d'impera. Dal momento che, come diceva Gmorg, il cane nero della storia infinita di Michel End, al servizio del nulla, è più facile dominare chi non crede in niente. Noi vi chiediamo scusa perché la maggior parte di voi è gente onesta, la maggior parte di voi dopo una giornata piena e dopo aver pagato un costoso biglietto per tornare a casa deve subire quotidianamente un'odissea. Vorrei che passasse questo messaggio: noi siamo con voi sempre e comunque, ribelliamoci a questo sistema fatto di gente corrotta e corruttibile che sta portando un'azienda come l'ATAC allo sfacelo più totale. Giovedì 28 novembre, perciò, alle ore 10:30 venite a manifestare sotto la sede in via Prenestina numero 45 con i colleghi della Roma Lido, i pendolari e tutti noi lavoratori. Per vincere questa guerra abbiamo bisogno del sostegno di tutti voi e tutte voi utenti. E mentre noi andiamo a mettere la marcia indietro, salutiamo Alessandro. E questa è una vera marcia indietro, lenta, senza andare su di giri, no. Fantasma UFO Mammut da Torino, se non sbaglio, dal Piemonte. Vabbè, chiariremo tra poco. UFO Mammut, questo è il loro ultimo lavoro 2012, prodotto per la Neurot. Homo. E questa è Ouroboros, che apre il lavoro. Oltre ad Alessandro andiamo anche a salutare Erbanana, che però ci annunciava innanzitutto che la scaletta era fiacca. E che tra l'altro stava mandando della musica vetusta, anziana, vecchia, datata. E che lui ascoltava della musica giovane e che perciò non poteva condividere le nostre scelte di questa, sia le tue sia le mie, non ha fatto, in questo è stato, non ha fatto sperequazioni, insomma. Niente, no, cioè l'ondata di gioventù di Radio Onda Rossa, certo, lui, certo, cioè, i nuovi arrivati, insomma, lo dimostra, freschezza, certo. Sì, sì. Perciò se volete ascoltare musica fresca e giovane e non queste robe che mandiamo noi da vecchi, da 35 anni almeno, insomma, minore o uguale di 35, anche qualche migliaio di anni in più, sì, sì, sì. Allora, se volete ascoltare la musica giovane, venerdì alle 14, niente da vendere sulle frequenze di Onda Rossa. La doppia H. Del venerdì pomeriggio. Continuiamo con le cose da vecchi, eh. E loro in realtà un pochetto vecchietti lo sono, eh. Tanto più che suonano dai primissimi anni 80. Dinosaur Junior. Però fanno sempre le copertine che ci piacciono di più in assoluto. Watch the corners. come si fa a non rimanergli appresso la coerenza? I was traveling in the spring of 1915. In the Black Sea area of the Ottoman Empire, I was Armenian. But as I climbed up into the town, only crowds of my people I spied on remand, all detained by the Turks, kneeling down at the scorching roadside. They were mainly children, they were mainly women, they were mainly old folk, mainly people of the Armenian genocide. There was a strong odor in the air of animal hatred. Then I saw the great scaffolds, intellectuals hung on long wires, dead money men with brains in their hair. That's an Armenian in Istanbul today. Price on your head, there's no price at all. They needed us then and our expertise. As Christians, we're just manure for their fields. They were mainly children. Genocide. In our thousands, they started to march us out of the towns. I was an international traveler and I saw many Germans, English, Americans that I knew. But the sheer weight of numbers, the sheer weight of soldiers, the sheer lack of care for these families' fates was boggling my mind, frying my brains as we all trudged up the hills in 100 degrees. I assure you, Moscow, London, New York, wherever you are, hear me. They did these things to us, even made us stand on that burning road for 2 days going nowhere. We had no food, no water, no self-esteem. By then they just start to pour scorn on the old, pour scorn on the feeble at the rear. There's no songs, no sound, nothing. Lui magro, macilento, coerente. Lui che non dimentica nulla. The Armenian genocide. Che ci segue fin dai primi anni, no? 80. Stop this walking. Stop this walking. Stop this walking. Stop this walking. Stop this walking. Stop this walking. Stop this walking. Stop as you mean to go on. Cristo, anzi Odino, direbbe lui. Movements of a whole nation. Movements of a whole nation. Movements of a whole nation. Movements of a whole nation. Movements of a whole nation. Movements of a whole nation. Movements of a whole nation. Movements of a whole nation. Is there some savior hero unknown among us? Is there no saint to save us? Call the wrath, will your enlightened flock escape their fate? The stragglers were miles behind us and ahead with the caves. The stragglers were 40 miles behind us and ahead with the caves. Stragglers were 40 miles behind us and ahead with the caves. Stragglers were 40 miles behind us and ahead with the caves. The stragglers were 40 miles behind us and ahead with the caves. The stragglers were 40 miles behind us and ahead with the caves. Stragglers were 40 miles behind us and ahead with the caves. Those monsters had chosen our graves. Ahead were our graves. Our fiery graves. Because ahead were the caves. Oh yes, our fiery graves. Compassion was 1,000 miles, 2,000 miles away. Where was compassion? Where was compassion? 1,000 miles away. Compassion, compassion, compassion, 1,000 miles away. But none of my people would live to see this night out, and only our enslavers would live to have their say. Lui che ci scrive, e i druidi. Questo album fu finito, fu completato nell'aprile, il 17 aprile del 2013, il giorno in cui Margaret Thatcher, il giorno dei funerali di Margaret Thatcher. Noi abbiamo subito l'incubo della sua vita troppo a lungo. Il suo accento ci fu, ci suonò ipocrito. I suoi modi furono ipocriti, odiosi, falsi. La sua fine fu una torta nel cielo. Essa visse troppo a lungo. Fuck off, Margaret. Morte ai tiranni. E lui è Julian Cope. Forget it happened, that's their attitude. Let's all sing. E dal momento che non dimentica, questa è la terza traccia del primo disco, 15 minuti di Armenian Genocide. Noi ce ne andiamo così per questa notte, ricordandovi che è uscita la Scarceranda 2014 ce l'abbiamo qui in radio, la troverete in a Roma nei principali info shop di movimento e in giro per i vari spazi occupati dove la radio si sposterà per presentare la autoproduzione della Scarceranda 2014. Le programmazioni in diretta finiscono qui e lasciamo in compagnia della compagna Automatica Zara con il palinsesto del giovedì mattina, che comincerà con la consueta lettura delle prime pagine dei giornali, la rassegna stampa cittadina, i redazionali della mattina, Miss Pavlichenko, l'osservatorio antifascista di Onda Rossa, il GR della radio Visionari e poi via via tutto il palinsesto fino a Noctibus Panis e Apostasia, i nostri cuginetti che completeranno la programmazione del giovedì. Il nostro saluto più importante va a tutte e tutti coloro che sono costretti a condizioni di libertà limitata, libertà personale ovviamente, carcere, la distanza, clandestinità, arresti domiciliari, famigerati, CIE, a tutti coloro imputati di devastazione e saccheggio, di devastazione basta, insomma tutto quello che ruota intorno a questo terribile reato del codice Rocco, che viene comminato a compagni e compagni della insorgenza sociale per reprimerla e ingabbiare le proteste, in particolare a Marina Cugnaschi presso la seconda casa di reclusione di Milano Bollate, via Cristina Belgioioso 120 20 157 Milano, al nostro Alberto Fagiolino Funaro presso la casa circondariale Capanna, via Pia Viola 252 06 132, Perugia, Jimmy Francesco Pugliesi, casa circondariale di Roma Rebibbia, G12, cella 12, piano secondo, sezione A, nuovo complesso, via Raffaele Maglietti 70 00156, Roma. E Luca Finotti presso la casa circondariale di Trento, via Beccaria 13, località Spini di Gardolo 38 014, Gardolo, Trento. Bella a tutte e tutti, ci risentiamo mercoledì prossimo, noi ce ne andiamo sotto la luna comunista. Sister, the best.